Ho ricevuto una drammatica telefonata da un fratello in fede in merito al suo matrimonio. Sua moglie, credente anche lei, lo ha improvvisamente lasciato per andare con un altro uomo. A rendere ancora più grave la situazione sta il fatto che la loro unione non aveva nulla di particolare. Vi erano i soliti battibecchi di due personalità che devono convivere, le solite incomprensioni, ma tutto si svolgeva nella norma fino al giorno nel quale la moglie gli comunica di aver trovato il vero amore in un altro uomo e la propria decisione di andare ad abitare con lui. E così fu. Il marito, ancora pieno di affetto, l'ha più volte implorata di tornare, ma senza successo, fino al giorno in cui Dio è intervenuto. L'uomo, stanco della novità, non ha più voluto saperne della donna, e così questa, trovandosi senza tetto e senza mezzi di sostentamento, è ritornata ad abitare con il marito, il quale, tutto contento, l'ha accolta in casa. Tutto sembrava risolto, ma vi era però un particolare che turbava il marito. La moglie parlava spesso del suo amante e quando faceva sesso pensava alla sua relazione con l'altro uomo. Il marito, cosa più che comprensibile, meno per un po', ha sopportato questo tradimento morale, ma in seguito ha cacciato fuori di casa sua moglie dicendole di ritornare solo quando non avrebbe più pensato al suo amante. Ed ora mi chiedeva per telefono che cosa posso fare per risolvere la questione. Nonostante tutto io amo ancora mia moglie, desidero che torni a casa, ma non tollero che il suo cuore sia rivolto verso un altro uomo. Questo non posso accettarlo. Se cambia atteggiamento sono disposto a riprenderla in casa. Ad essere sincero, preferisco mille telefonate per problemi biblici in merito alla comprensione della parola di Dio, a telefonate del genere. Innanzitutto perché si tratta di questioni molto personali, così intrecciate di problemi che un estraneo difficilmente può comprendere nel modo giusto, meno e soprattutto per telefono, meno poi perché è molto facile dare consigli o caricare di pesi gli altri quando non si è coinvolti in prima persona. Ma l'accorata telefonata del fratello in fede non mi lasciava spazio né di pensare, né di rimandare, né di fare orecchie da mercante. Anche perché l'amore che Dio ha sparso nei nostri cuori non permette l'indifferenza verso le sofferenze altrui. A rendere ancora più difficile la situazione per me era che il fratello avrebbe preso la mia risposta come una parola procedente da Dio, cosa che mi caricava di un peso non indifferente. A volte un simile atteggiamento può essere salutare, ma è molto pericoloso perché un fratello parla secondo quanto ha capito dalla scrittura, così che uno può dare un consiglio, mentre un altro può darne esattamente al contrario. Ecco perché occorre ricevere solo da Dio le convinzioni per la propria morale, anche perché sta scritto: tutti saranno ammaestrati da Dio. Gli uomini sono solo strumenti. Dopo una breve pausa e una relativa preghiera a Dio che mi illuminasse in merito alla risposta, diedi il seguente consiglio. Una soluzione per risolvere il problema c'è. Devi solo chiedere a tua moglie di ritornare a casa tua, ma devi trattarla come fosse il prossimo. Cosa voglio dire? Il tuo problema non è fare ritornare tua moglie a casa tua, ma che lei non abbia più il cuore rivolto verso un altro uomo. Questo è il reale ostacolo. Ma se tua moglie torna a casa e tu la tratti come una qualsiasi altra donna, se tu non avanzi dei diritti morali e sessuali, se le vuoi bene e le fai del bene come per qualsiasi altra donna, vedrai che in lei avverrà un cambiamento. Del resto, come siamo disposti a svolgere delle opere sociali in favore di tante donne prostitute o ragazze madri, perché non fare lo stesso con la propria moglie? Fai dunque tornare a casa tua moglie, la tratti come una qualsiasi donna che ha un disperato bisogno di essere accolta, e lasci che lei pensi ad un altro uomo. Il tuo scopo deve essere quello di farle del bene fino a se stesso, e non interessato che lei cambi opinione. A quante donne ingrate e immorali viene fatto del bene, e non mutano moralmente. Nei confronti di tua moglie, però, hai un vantaggio. Fai del bene a tua moglie, lei rimane in casa, i tuoi figli la possono vedere, hai una donna in casa, e tutto è regolare. E se poi cambia atteggiamento e riconosce i suoi errori, hai guadagnato un'anima che non è di una qualsiasi donna, ma di tua moglie. Con questo atteggiamento forse per la prima volta sai cosa significhi amare veramente. Dall'altro capo del telefono vi era un silenzio assoluto. Capivo che il fratello era frastornato da questa opinione che per lui era totalmente nuova, ma mi rendevo anche conto che vedeva una possibile soluzione al suo problema. Allora, mi rispose con un tono di speranza, vuoi dire che funziona? Non importa che funzioni, gli risposi a mia volta, l'importante è che tu faccia del bene a tua moglie, anche se lei per ora non comprende il tuo gesto. Accogliendola in casa come una qualsiasi donna, hai il vantaggio di riunire la famiglia, comunque sia non è tentata ad andare altrove, puoi sempre parlargli del messaggio dell'amore di Dio, e una volta tornata in sé comprenderà che l'hai veramente amata per quello che è e non per quello che faceva. È vero che tutti siamo convinti di amare il proprio coniuge, ma se fosse così non ci sarebbero tutti quei divorzi e separazioni evidenti o nascosti, ma di fronte a tradimenti o difetti insopportabili si continuerebbe a compiere del bene e cercare la felicità del coniuge quanto la nostra. Il silenzio del fratello era tombale, poi mi rispose. Grazie. Proverò a fare come tu mi hai detto. Dopo qualche tempo ricevetti una nuova telefonata dal fratello in fede e tutto angosciato mi disse che aveva accolto in casa sua moglie, ma che l'aveva di nuovo mandata fuori casa. Come mai? Gli chiesi. La risposta mi lasciò un poco deluso. Mi disse che l'aveva rimandata fuori casa perché lei non ammetteva di aver sbagliato e che lui le chiedeva solo di confessare i suoi errori. Il fratello aveva proprio capito poco di quello che avevo detto, ma nello stesso tempo mi resi maggiormente conto quanto sia difficile compiere del bene in modo disinteressato, che in altre parole significa quanto sia difficile amare. Sono convinto che il fratello avesse amato sua moglie quando l'ha conosciuta, quando si è innamorato, quando l'ha sposata, quando ha voluto da lei dei figli. Ma quello che pochi hanno capito è che l'amore dimostrato in questo modo è un amore a livello umano. Cioè quell'amore che tutti abbiamo ricevuto al momento della nascita. Lo stesso Gesù ha messo in evidenza che gli uomini per natura sono in grado di amare coloro che li amano, di essere cortesi con coloro che sono cortesi, di benedire coloro che li benedicono, ma nessuno può fare del bene a chi non lo merita, meno come la moglie che tradisce il marito, meno a meno che questo amore non proceda da Dio. Infatti il problema del fratello in fede che ha rimandato via sua moglie stava proprio in questo. Pretendeva dalla moglie un atteggiamento di umiltà e di confessione di peccato e poi l'avrebbe tenuta in casa. Ma se Dio si fosse comportato così con noi, chi potrebbe ottenere il perdono dei suoi peccati? Se Dio avesse preteso di perdonare gli uomini solo dopo che questi si fossero umiliati, chi avrebbe accettato il sacrificio di Cristo come l'unico mezzo di riconciliazione tra Dio e gli uomini? Ma grazie siano rese a Dio perché in Cristo Egli ha già perdonato tutti i peccati degli uomini. E il riconoscimento di essere perduti non è una condizione per ottenere il perdono, ma la motivazione per ottenerlo. Cioè Dio non perdona a condizione che ci umiliamo, perché il perdono è già stato dato, come è scritto, Dio ha riconciliato con sé il mondo non imputando agli uomini i loro falli. 2 Co. 5.19. Ma si realizza il perdono di Dio solo quando ci si vede degni di riceverlo. Inoltre, il fratello in fede ha mancato proprio nel suo orgoglio. Avanzava dei diritti e li voleva realizzare a tutti i costi. Pochi credenti hanno compreso che la fede cristiana pretende dai suoi seguaci la totale rinuncia a se stessi, il che vuol dire rinunciare totalmente ad ogni diritto. Il marito in questione aveva tutti i diritti di pretendere il riconoscimento degli errori della moglie, ma non aveva il diritto di far valere i suoi diritti. Un atteggiamento questo che neppure Cristo Gesù come figlio di Dio ha fatto valere. Sono pochi coloro che hanno compreso che la quasi totalità dei problemi matrimoniali sono risolvibili non affrontando il matrimonio con delle leggi che lo riguardano, se divorziare, quando divorziare, se è lecito separarsi, ma ubbidendo semplicemente al più grande comandamento rivolto verso il prossimo. E noto che alla domanda quale fosse il più grande comandamento, Gesù rispose che era quello di amare il vero Dio con tutto il proprio cuore, con tutta la propria forza, la propria anima e la forza. Aggiungendo poi in seguito che il secondo, simile a questo, era quella di amare il prossimo come se stessi. Dunque, nessun comandamento è maggiore di questi, e calato nella realtà matrimoniale, il comandamento di amare il prossimo come noi stessi può produrre un beneficio che non ha limiti. E, risaputo anche che alla domanda chi fosse il prossimo, Gesù rispose che il prossimo era colui che era bisognoso e del quale si aveva cura e interesse, cercando di ristabilirlo. Fisicamente, moralmente, spiritualmente, e se questa è la situazione, allora una moglie che tradisce il marito è il prossimo per eccellenza da aiutare. E nessuno può aiutare il prossimo, tantomeno la moglie, se non con uno spirito di massima abnegazione. Se gli sposi, specialmente quelli credenti, cambiassero il modo di considerare il proprio coniuge, se vedessero in lui anche un qualsiasi essere umano bisognoso di affetto, di attenzioni, se lo considerassero la persona più importante da fare felice e da rendere appagata, se ritenessero che il matrimonio da loro contratto è stato, come sta scritto nella parola di Dio, assegnato da Dio, 1 Cor 7:17, allora vivrebbero meglio la relazione matrimoniale e renderebbero meno gravosa quella del coniuge. È difficilissimo essere convinti che ci si dovrebbe sposare per far felice il proprio coniuge, come è altresì difficile pensare che ci si sposa per soffrire. Il marito deve amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa, e questo significa una rinuncia totale ai propri diritti ogni giorno, mentre la moglie deve essere sottomessa al marito. E questo significa una rinuncia totale ad ogni pretesa di autorità sul marito. In definitiva, l'orgoglio maschile e femminile viene totalmente annullato. Perciò, se situazioni come quella del fratello sono apparentemente non risolvibili, accettare la moglie in casa e trattarla come una qualsiasi donna con lo scopo di aiutarla senza avanzare nessun diritto come marito, non solo salva il proprio matrimonio, ma permette di mettere in pratica il più grande comandamento esistente in merito al prossimo, e cioè di amarlo come noi stessi. Questo comandamento, secondo Gesù, supera ogni legge e opinione in merito al matrimonio. Giugno 2007, Ellero.